rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea meno uno, potremmo dire, perché purtroppo nessuno se lo aspettava, lo abbiamo detto settimana scorsa, o meglio, diciamo che in tanti speravano che alla fine il Remain prevalesse e invece, come sappiamo, ha prevalso il Leave e quindi si prospetta questa Brexit. Dico si prospetta perché l'avrete sentito in tutti i modi da tantissime voci, il referendum è fatto, i voti sono stati contati, ma come e con che tempi questa Brexit, uscita della Great Britain dall'Unione Europea, avverrà, su questo ci sono pochissime certezze. E allora cominciamo da Les Echos, che è un quotidiano francese, il principale quotidiano economico francese, di proprietà dell'uomo più ricco di Francia, Bernard Arnault, che è anche il presidente, il CEO del più grande gruppo del lusso al mondo, che è LVMH, di cui fa parte anche naturalmente Vuitton. E è un quotidiano che comunque ha una sua tradizione molto forte, anche se appunto da qualche anno è di proprietà di Bernard Arnault, e ha intitolato la sua analisi molto curiosamente in inglese: Keep calm and carry on. State calmi e andate avanti. Dico perché curiosamente, perché sappiamo come i francesi siano, probabilmente anche avendo ragione, gelosi della loro lingua, e quando usano l'inglese il meno possibile, se possono traducono. Sapete che per esempio la famosa traduzione di computer, che è ordinateur, loro si rifiutano di usare la parola computer, forse i più giovani in realtà la usano. In ogni caso, il titolo è in inglese e l'analisi è su quello che appunto adesso dovrà fare l'Europa, non tanto quello che farà la Gran Bretagna, ma giustamente Les Echos scrive: i cittadini europei possono ringraziare Boris Johnson perché offre la storica opportunità di rimettere l'Europa in carreggiata e di arricchirci tutti quanti. In che modo? Bisogna chiarire la situazione istituzionale e burocratica. Però ecco, mi è piaciuto questo atteggiamento di, lo dicono in tanti, però poi vedremo se davvero succederà, di cogliere questa occasione per riformare a fondo l'Unione Europea così come è fatta, sia dal punto di vista della rappresentatività democratica. C'è qualcosa che si inceppa, perché benché siano i governanti e i parlamenti dei singoli paesi a scegliere chi li rappresenta nei punti veramente chiave, nelle istituzioni chiave dell'Unione Europea, che sono il Consiglio Europeo e la Commissione Europea, in realtà sappiamo che direttamente viene eletto solo il Parlamento Europeo, che legifera, ma che poi non ha di fare legifera. Fa delle leggi, propone, fa delle leggi che poi non vengono direttamente applicate, ma vengono poi sottoposte alla Commissione. Quindi già questa farraginosità rende l'idea a cui siamo abituati di una vera democrazia diretta, diversa da quella che è stata concepita per regolare l'Unione Europea. Da una parte questo, poi ci sono naturalmente tutte le accuse di essere di avere degli apparati burocratici esplosi nel corso del tempo, e in ogni caso appunto l'opinione di Les Echos, prendiamo il positivo che è venuto da questa situazione. Molto interessante, questo lo trovate sul sito di voxeurope.eu, un grafico che analizza quanto sono informati sull'Unione Europea gli europei. Anche di questo avrete sicuramente molto sentito parlare, o magari qualcuno di voi ha guardato su internet le interviste fatte a chi stava per votare o chi aveva votato, ed era in alcuni casi, poi naturalmente bisognerebbe vedere come sono state scelte queste interviste, perché chi è poco informato c'è sempre, ci sarà sempre, così come ci saranno sempre quelli che invece sono informati. Era abbastanza chiaro che molti cittadini britannici, in particolare dell'Inghilterra, meno quelli della Scozia, come sappiamo, e dell'Irlanda del Nord, sapevano di fatto molto poco dell'Unione Europea, e che quindi sono stati spinti in realtà dagli slogan e da alcuni partiti politici a votare per questo Leave. Scrive Vox Europe: fra tutti gli europei, i britannici sono i meno informati sulle vicende dell'Unione Europea, e questo probabilmente ha avuto un'influenza sul risultato del referendum del 23 giugno. E infatti è apparsa abbastanza palese questa ignoranza, proprio sia sul reale sul quello che dicevamo, e in effetti forse anche in Italia non siamo poi così informati su questo, su come davvero funziona l'Unione Europea, su quello che ha fatto in questi anni, su come è nata. E in questa classifica viene fuori che i più informati in assoluto sono gli sloveni, che hanno un tasso di massima conoscenza calcolato con un indice dell'82,3. Seguono Lussemburgo, Croazia e, pensate, la Grecia, e il Regno Unito appunto è all'ultimo posto con un 57,3% e 57,3 di indice. L'Italia è un po' lì in mezzo con un indice del 64,6. Questo sondaggio di Eurobarometro lo trovate appunto sul sito di voxeurope.eu. Vi segnalo anche una delle tantissime vignette che sono uscite in questi giorni. E questa è una, cioè un inglese, un uomo, presumibilmente inglese, perché dietro di lui c'è la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Questo omino ha in mano una chitarra. E sul corpo centrale della chitarra ci sono le stelle che richiamano la bandiera dell'Unione Europea, e questa chitarra è blu. Lui la sta scagliando con una violenza pazzesca per terra, e dietro si scrive Should I Stay or Should I Go?, che naturalmente è il titolo di una famosissima canzone. E c'è un animaletto che potrebbe essere un gatto che guarda molto spaventato e dice «Oddio, è tornato lo spirito rock britannico». E questo appunto per anche un po' cercare di non drammatizzare, perché per quanto, come avete sentito anche in tantissime trasmissioni di Radio 24, ci sono dei dati concreti, non è questione di drammatizzarli. Il crollo delle borse prima di venerdì scorso, del giorno dopo l'esito il giorno dopo il referendum, e anche di lunedì di questa settimana, sono stati impressionanti. Quindi quelli sono dati veri. Dopodiché c'è stato un assestamento, però insomma le conseguenze finanziarie e economiche, come previsto, ci sono state. Però appunto, perché non citare anche qualcosa che ci fa sorridere, anche se poi sono perfettamente d'accordo con l'allarme lanciato un po' da Eurobarometro e da molti altri. Adesso sì, certo, occorre prendere questa occasione per riformare l'Unione Europea, ma soprattutto sarebbe auspicabile che tutti noi, ci metto anch'io naturalmente, aumentassimo il nostro grado di informazione sull'Unione Europea, su quello che fa, su come funziona, su quello che ha fatto e sui piani che farà. Perché un altro grande equivoco è quando si dà la colpa all'Europa, si dimentica sempre che le decisioni vengono poi annunciate dalla Commissione e dal Consiglio Europeo, ma sono state prese consultando i governanti dei singoli paesi, che poi a un certo punto, quando si accorgono che queste decisioni, come spesso accade quando si tratta di compromessi tra 27 paesi diversi, queste decisioni non sono così popolari, e quindi è molto facile creare degli slogan e dire è colpa dell'Europa. A proposito di dare delle colpe, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco, la cancelliera Angela Merkel ha spiegato che non c'è una vera rotta di collisione con l'attuale presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, di cui molti avevano chiesto le dimissioni all'indomani del voto. Come dire, c'è un paese che ha dato un parere molto negativo sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'equivalente di quello che noi chiamiamo governo, cioè dell'esecutivo, la Commissione, quindi Juncker si deve dimettere. Un ragionamento un po' così, un sillogismo un po' forzato, tant'è che Juncker, che peraltro non brilla né per umiltà né per capacità di autocritica né, se vogliamo, per simpatia, comunque ha subito detto ma non ci penso nemmeno di dimettermi. E siccome qualcuno aveva ipotizzato che Angela Merkel fosse favorevole a questa ipotesi, sulla FAZ il portavoce di Angela Merkel, Stefan Seibert, ha detto no, non è assolutamente così, noi vogliamo semplicemente portare avanti la discussione, Juncker è un tassello di questa discussione, non servono le sue dimissioni per risolvere o trovare una soluzione più veloce al problema Brexit. Cambiamo un pochino argomento magari. Siamo in Germania, ma perché la Germania si è molto appassionata, potremmo dire, al voto che c'è stato 2 settimane fa in Italia per le amministrative, e soprattutto alla quella che forse è la notizia che ha fatto veramente il giro del mondo, cioè la vittoria schiacciante di Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle a Roma. E adesso adesso naturalmente ci si concentra su quello che riuscirà a fare. Tanti proclami, un buon programma, tantissimi voti da gestire bene. Secondo la Süddeutsche Zeitung, appunto, quello che farà Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle a Roma è una cartina di tornasole per l'idoneità a governare a livello nazionale. E però viene subito sottolineata come la reazione alla più grande notizia degli ultimi giorni, che è naturalmente la Brexit, sia stata un po' confusa. Lo abbiamo registrato tantissimo anche qui in Italia. C'è stato un momento in passato in cui il Movimento 5 Stelle addirittura si era schierato pro uscita dall'euro, poi non se n'è più parlato. Adesso naturalmente di uscita dall'Unione Europea non, di quella non si era mai parlato, però adesso proprio viene indicata come un pericolo, ma vengono comunque sottolineati tutti i problemi dell'Unione Europea, con il piccolo particolare / aggravante che comunque il Movimento 5 Stelle nel Parlamento Europeo appartiene allo stesso gruppo a cui appartiene il UKIP, il movimento di Nigel Farage, che è stato in assoluto, forse ancora più di Boris Johnson, in assoluto il più accanito sostenitore della Brexit. Era però l'ultima segnalazione che riesco a farvi per oggi. Di fatto abbiamo parlato quasi solo di Brexit, ma è davvero un tema che io spero che prima di 2 anni si risolva, ma comunque che seguiremo con la giustissima attenzione che va data in una rassegna che si chiama Europea. Ancora buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.